chi è? Ma esce? Sopra chi? Sei fuori frequenza. Bip. Fuori frequenza e sei a 00 proprio quasi. Nuda signor Bacchi, c'ho il bip. No, adesso appena. Quale? No, è sempre lo stesso, signor Bacchi. Si sente appena. Nulla. Sempre un umatessi. Bip! Signor Bacchi, solo il bip c'hai, eh. Allora, signor Bacchi, nulla, perché si è abbassato anche di segnale. Adesso già sta uscendo però, sì. Sì, adesso sì. Microfono, raga. Guarda, bu. Figlia, andiamo e andiamo. Andiamo a dire mille cose. Adesso perché stai uscendo di rompere il capo. Che andiamo, signor Bacchi? Sì, io prendi appunto un vigneretto di Marino, e non funzionava. Allora ho preso, anche appunto ho posto un filo ed è un treno. Oh, sì. Non c'è bisogno di mettere questi lignaretti, cosa riboni a fare? A voi riboni il lignaretto e ci sato. Ma di cosa non ti metti fuori frequenza? Perché anche era troppo vicino. Ah, infatti, non va bene così. Ma da mani non va bene perché in lontananza ti provano a fare qualcosa. Aiutare. Vabbè, ma sono in coso, ma no in radio. Il segnale non c'è importanza, quello che conta è sentire. Ah, infatti, è quello, è farsi sentire. È così. Adesso gli mettono due viti e lo salvo. A Giorgino. Poi ce ne vado a dormire. Aspetta che andiamo. Andiamo bene. Andiamo bene e bene male. Sto pensando, perché mi lascia stirare questo orinale? Vuol dire che no, non è giusto. Sì, c'è una saltatura andata in una mala. Cos'è, signor Bacchi? Ho trovato il difetto. Il piede che è attaccato alla basetta è dissaldato. Ma il filo è dissaldato? No, il piede proprio dissaldato. Non è attaccato alla carrozzeria. Ah, no, si sono staccati le viti o cosa c'è attaccato? Solo la saldatura lo tiene. Solo la saldatura, poi quando mi dico perché ci sono le viti che lo fermano. Adesso io guardate, ma ci vedo buio lì, nero, l'ho mosso ed è dondola. E allora che dai fa, dottor Bacchisa, rimette un punto di stagno e vai via. Infatti, per tenerlo fermo. Ma gli chiediamo 100 euro e a posto lui. andiamo. No, bisogna fare così, se no si va avanti. 100 qua, 100 là fanno 200. Infatti, io fa così bisogna fare oggi. Adesso sta sporgendo terra, sta facendo il contadino. Aia. E tanto adesso fra un po' già finisce, ma teniamo poca. Poca da spargere, poi già si arriva in radio. Ehi. Gli avete già finito? Ma chi? Bene, sta arrivando come radio. Bella, chiara, tu, sei messo a casa. Via da Edo. Poi, appena è più caldo, lo provo a vedere con il processore, a vedere. Ma di grande si è usato. Sì. Lo voglio vedere con il processore, a vedere se spinge. Puoi continuare. Dovrebbe funzionare, no, così io non l'ho acceso. Adesso l'accendo, lo metto a scaldare, no? Così poi lo proviamo. E voglio vedere se si allarga questa cosa. Lo signor Bacchi. Perché i lavori sono finiti. Lavori? Lavori finiti. E quindi cosa dobbiamo fare? Finito, incassare solo e basta. Siete. Andiamo. E quindi il signor Marino? Perché sei a fruscio? Che ti sia baciato tutto, va. Ma se scendi Radio 1, Radio 2. Andiamo a vedere. Cosa l'hai fatto? Signor Bacchi. No, non andano. Non va. Allora. Aspetta, signor Bacchi, c'è un altro che sta chiamando, che è basso. Avanti, chi è che sta chiamando? Allora. Ma no, se basso non riesco a capirti. Ma chi sei? Bravo, ma tu sei? No, la modulazione è bassa, arriva, to. Sembra, Franco, ma tu sei? Ma Franco di Sorso o Franco di Ganiga? Di Sassari. Boh, non riesco a sentirti bene, no? California. Andiamo. Fra, cerca di sollevarti, che non ti intendo né quasi, eh? Vai, tu lo sai cosa dice abbasciato? Qua stai usando un antennino. Sono in campagna. Lo so che sei in campagna, ma sollevati appena, poi gira più in alto un'antenna. Sicuramente me la girata il vento, ce la controllo. Sull'albero dell'olivo, mentre sull'albero dell'olivo, voilà. Aspetta, da qui me l'ha girata questa bumbola, guarda. Bumbola che stai andando, era la vento l'ha girata, a spalle. Non mi l'antenna. Sì, è io. E Santiago 7 sta arrivando, non di più. Santiago 7. Sì, ma molte volte faccio difficoltà ad ascoltarlo. Ehi, fra, bisogna che ti trovi un traliccio alto parecchio, Perché non posso qua, da tutto. Devo trattare la volta da 5, solo che non c'è mai tempo. Ah, così, uia. Andiamo bene, Franco. Andiamo. Questa tenda non è per usare il vacuo, ho capito, mi sono dando i dubbi. Andiamo. Aspetta che ti passo al signor Bacchigi, avanti signor Bacchi. Ehi, è così l'ho visto. È così, adesso è migliorato però, ha aumentato, forse si è spostato, stai gridando, però... avanti. Ha aumentato un po' di vacuo, Bacchi. Aspetta che aumento l'altro po'. Ma che bocca di sai voi? sapete, ma chi? La Radio 5, Fra, perfetta. E c'è là, è buono, va bene. Sta arrivando da me. 8, è Radio 5, la torre non lo so, torre che fai? A me a pochi arrivi pochi, a voi prima all'inizio arrivi piano piano, a me ci solleva. Adesso c'è un momento, mi ci prende l'antenna, non posso aumentare che mi porta tanto, capito? Ma comunque quello dovrebbe funzionare con 50-60 watt, dovrebbe funzionare. Adesso con il mio tempo sarà salvato due ragazzi. Ecco, ma c'è su due voti. Ma era già così. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma ti intendo. Ma che se ne segnale a basso, se del radio ti sento forte. Adesso che c'è le 50. Quasi 100. Sì, vabbè. Adesso le delle cose di radio sei forte. La radio va bene, dai. Cappa. Le 60. Sì, aia, già andava. Già va bene. Vai, ma sì. Allora, non fare come ho fatto io, no, la boomerang, quando siamo al negozio. Nessuno mi ascoltava, dice basso, io sono un legnale da 1000 watt. Di lato 800 watt, adesso c'è l'antenna. Un coso, un pivot mi fa la dose in terra, sei sciolta. Ho fatto da qui, io anche io ce l'ho, ma l'ho attacco, perché la sella non ce l'ha fatta. A parte che c'è la radice 48 di figlio, troppo sottile. Quindi devo uscire così per adesso, poi vediamo un po'. Se aumenti sciogli tutto. C'è già a carico. Sciogli tutto. Vabbè, rubato di mettermi la cingomma, no? Sì. Abbascia un po'. Ciao, Manuel, buonasera. Ciao, Fra. E allora, sta a posto. Tutti che non mi sentono questi qua, ma per immagine. Vabbè, se non la tengo la lupo a io, però... E qua sei 8, Radio 5, chi è che non ti sente? Ma la radio è forte, va bene, c'è la volta ancora. Ah, la modulazione va bene, io ti ascolto. Poi gli altri non lo so. Ciao Marchisio, ciao Salvatore e via dicendo. Con? Sì, registrato. Manuel, se te ho detto di Zebo tutta gira. Perché? No, è sempre quella la modulazione. No, che è più forte. Dalla tradice più forte. Andate. Vabbè, mi tocca baciare. Avanti il breco. Buonasera a tutti, qui Antonio Bombolo da questa parte. E buonasera anche a lei, signor Bombolo. Andiamo bene. Signor Vecchi, l'ascolti? Sì, ascolto Bombolo. E lui si affaccia quando fa freddo. Il Bombolo si affaccia quando fa freddo. Buonasera a tu. Buonasera anche a Ginko. Sì, no, io a Franco lo ascolto benissimo, 8, 5, capito? Non c'ho problemi. Non c'ho problemi. Avanti, Fra, si è ascoltato a Bombolo. Ciao Arturo, buonasera, ben entrato, ben ascoltato. Non so se mi ascolta Arturo a me. Vai a tu. Ma cosa ti ascolto? Ah, ma c'è un'antenna nata a Gubbisciuria, ti ascolto, sì. Dai. Tu potrai cambiare la porta, 8, 5, sì, Arturo. Ma la stai modulando al monte, tu? No, relativo, c'è le campagne qua, vai. E non dico. KK. No, io sono zona qua, Corso Vicco, dai, non sono più a Latte Dolce. Va, stai arrivando benissimo qua, questo è bene. Dice che Battisti arriva, no, con Radio 5, Batti qua le sta arrivando, no, con Radio 5, dai. Non sono andato con l'889 del Vinter, che 40 canali, con quello lì, senza spinte. Ma come arrivo lì a Latte Dolce, ma chi? Addirittura è 6-7. Arrivo lì a Latte Dolce. Dove anche tu stai arrivando, 9, e Radio 5. KK, anche da cosa, da, adesso mi viene il nome. Tutti voi, sì, da Mamaciti, bubu. Ma no, guarda adesso che capisciano senza processore, vedi un po'. Va bene, lo stai, metti il processore a vedere. Tappa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lasciala così. È più forte, no? Eh beh, tutta una cosa. Andare bene lei, va. Mario, ho sentito stasera, dove vai? Sentito per un po', poi io salivo in radio. C'è quel cappello, io dico. Mi era andato una foto di una rata, io ho preso. Un attimino. Andavei, e ben Antonio, uomolo. Vai, due, vai fra. Antonio, che ti è fatto? Sì, no, stavo parlando, stavo qua. Capito? Ma ne va a essere mettente, Antonio. Sono cosa di un portatile io. Un portatile si tratta. E io, quante ne sono a gomma. Ma mi senti, sì? A voi ti tengo le occhi. Sto già un portatilino, dai, quante ne sua, nel tuo caso. Se domani. Quante domani? Impossibile. Se sono in serio, se ho dato un'antenna per tua casa. Ma che massa se la sei tu? Non nato che massa io, non massico io. Oh, c'ho l'antenna del coso, l'antenna delle pere. Sì, Ma dai, vieni per me un attimino. Vai, Tore. Caspita, non è l'antenna dei ribelli, o di Ranozza vai. Ah, vai di Ranozza, prima erano i ribelli. Avanti, signor Bacchi. Per la terra c'è Bacchi. Aspetta, mi raccusa, Bacchi. Io già ti ascolto, sì. Già ti ascolto io, però l'altro non lo gioco. E io già lo sento lo stesso, ma è basso il segnale. E guarda, adesso sono basso. Ah, là sei tu. Oh, dove ho commutato l'antenna. Avevo l'antennino, adesso con l'antennone. Andare. Vediamo se Franco adesso ha migliorato qualcosa. Franco non mi ascolta, no, Luzza. No, le riprendi tu, fa girare per Antonio. Sì, avanti. Deve essere che Antonio si è allontanato, si è. Ma chi? Iuia, andiamo bene. Scusate, vi ascolto lo stesso, ma c'ho da fare le faccende di casa. Dai, ce la risentiamo. Ok, Anto, ce la risentiamo. Andate. Riprendi Fra. Basta, dai, riprendo io. Ciao, Antonio. Ce la riascolta, le riesce. Ciao, popolo. Ben sentito, dai, ce la riascoltiamo tutte le prossimine. Sentiamo il bombolo, oggi che è freddo, ho uscito. Ciao Antonio, buona serata, a sentirci in migliore condizioni ancora. Bene, Mela. Franco, come mi raccolti adesso? Adesso si salta quello che ci quello che dice qua. Ho capito, ho cambiato strada. È andata a terra. La terra sembra così, però il baracchino c'è l'antenna, perché c'è l'antenna buona. E se c'è antenna c'è tutto, se non c'è antenna non c'è nulla. Capito? Avanti, signor Zinco. Per la tabacchese c'è l'antenna e c'è tutto. Io la faccio una, la pianta di nozze, boh. C'è l'antenna, altro fiorito di nozze. Adesso non te ne avremmo quando ho fatto... Hai compreso Ginko, stanotte hai getta di ospiti? So che aveva la gabbia buttata dal balcone e già mi veniva da notte. Non si tiene fermi stanotte Ginko, stanotte li fermo la rosa e adesso c'hai le noci. Di nozze, ma una riso pasciutti di nozze, la pianta azzurro beh. Già se la mangiare della corraccia. Vediamo se c'è Marino. Marino. Non lo so, non ho sentito per niente. Stava spalando terra, Emanuele. Stava spalando terra. Stava livellando il cortile. Non mi sbaglio, non ho finito ancora. Appena che finisco sabato. Sono le 8:20. Se devo tenere un poco, non fate ben tempo. Fate un treno. Sì, perde il treno così. Andiamo. Pazienza, se perde lo treno, vuol dire che perdiamo la cavalleria. No, lo Dax, diciamo, ci pigliamo Dax. Alcune fruscelli e non arrivino con il fischio. Avanti Fra, cosa da rivendi. Allora che ridù. Vabbè, dottore, sei battuto, sei un po' segnale adesso. Ma di più l'ho detto, perché se no sta qui. Aspetta, signor Bacchisio. Ehi, adesso sono molto grave. E dunque bisogna aspettare qualche secondo che il lago torni indietro, se no non ascolto. Infatti tocca far uscì, tocca far, tocca città. Sì, il tuo così. Ehi, a Franco non l'ascolti. Ma c'è più basso, non so perché, c'è più basso. Ma più basso, non dicevo che più basso, no? No, fra, da poco fa ti ascoltato molto meglio con l'altro radio, forse la radio che è più sordo. Guarda, ok, ma chi? 695. Bene, già, dai, lo lascio così, dai, non lo metto di più perché va a strappare, non ce la fa a te. No, se vuoi a strappare vai a piegarla, poi se continua a modulare, se la faccio fuori la vedi a testa in giù. Infatti, anche se c'è 50 watt, battito di più, la fine. La boomerang fa brutta fine. Lo stilo si piega, mi è successo già, ho esperienza su quel campo, si è piegato, l'ho fatto a 6 giorni l'ho fatto. Ma anche il capo scalda, capito, il capo, l'ero di 58 scalda troppo. Oh, Franco! Ma dove è? Ma lì ti arrivo di segnale. Ma ti arrivo, no, dai, radio 5, ma dove è? Aspetta un attimo, dai, aspetta un attimino. Allora, signor Bacchi. E allora, amico, mi pare che comincio a ritirare baracca e baracchini, non che sopra, e mi sembra giusto. A chi no che questo è da rovinare a fammi, capito? Marino non si sente, Marino non si vede e dunque noi ce ne andiamo giù. Ce ne andiamo giù e prepariamo a imbottire. Aspetta un attimo, signor Bacchi, attacco il coso. Guarda, è cambiato adesso. Io lo stavo guardando, riprova sto. Guarda a vedere, no, la radio. Vabbè, si è aumentato qualcosa. La radio, prova normale, togli il processore. Guarda a vedere adesso. Adesso è più pulita, poco fa un po' strozzata. Prego. Ehi. Registrato. Vabbè, Bacchi, vuol dire che non anda. Vuol dire che non anda assai. E così. Adesso io ho diminuito o aumentato? È aumentato appena appena. Aumentato appena appena, Bacchi. Okay. È aumentato appena appena. Sì, adesso non mi capisco di più. C'è il fondo a scala, Bacchi. Adesso doveva essere più forte la radio. A voglia. Ho fatto il processo. Aspettate che faccio entrare il brecco. Avanti il brecco. Sono io, Franco, mi ascolti? Guarda, avanti, guarda dove ci sta arrivando adesso, da noi, 1, 2, 3. 9, radio 5. Tu come mi ascolti adesso? 9, 9, 5, sì, radio 5. Tu porti il poco fa. Ok, dai, perfetto, dai. Comunque la modulazione già va bene, Franco, lasciala così. No, io non so, io non ho toccato niente. Io lo posso aumentare, ma non è perché l'antenna lo c'ha. Non è un casino. Se no si sono di tutto. Come maniera. Va da chi? Manco si fa se domani con l'ombrello, a chi tanto si pigia la punta, che è stata capa a terra. Anda bene meno. Va bene, dai ragazzi, io vi devo lasciare, devo andare giù. È arrivata quasi l'ora per me. Ciao Emanuele, buona serata, buon questo ancora, a risentirci domani. Ciao Franco, buona serata, anche per te, buon questo, buon saluto in casa. A domani, se tutto coincide, ce la chiediamo ancora. Poi chi c'era? Ah, c'era Tore. Ciao Tore, buona serata, saluta la signora, a domani. Anche agli amici che sono in ascolto, chiedo scusa se dimentico qualcuno. Ci salutiamo cordialmente con la buona serata a tutti quanti. Ma chi si ascolta fino a Lino e passa in QRT. Vai Tore. Ok, ci sentiamo domani, Bacchi. E tutto va bene. Ok. Ciao Bacchigio. Avanti Emanuele. Che sai dove trovarmi se no? Ehi, aia. Bacchigio, ma credi con tutto, dai. Ma continua. passa in serata, ce la riascoltiamo domani, senza babari, basta. Sì, ok. Ti prendi fra. Ciao Battisio, buona serata, a tutto, saluto il QRA, sotto tra giù la parte 1 e cioè riascolta le cruce, ma saluto della pedalificazione dell'ascolto. Ok, vai, rilancio la vetropolia a Torre, vai Torre. Sì, ok. Andiamo bene, oggi è cambiato apparato Manuè. Ehi, arrivo. Aspetta un attimo. Fra, cosa stai dicendo? Il grande sto. Cappa di produttivo. Ehi, dato scelto, va. A te sto utilizzando quello. Oh, noi andiamo bene. Aspetta, fra, che... Manuè, cosa stavi dicendo? No, cosa mi hai detto tu? Cosa sto usando? Sì, avevi ciambato a parada, ciambato. No, sempre quello, ho cambiato solo microfono. Ah, così è. Allora è dura da ciambare, però. Sì, ho cambiato solo microfono. E che gli dono, ti dia zia? Negativo. Vabbè. Va benissimo, va benissimo, ok. Si prendi fra. Beh, tra voi che ci ho messo i baracchini Siri, cazzo io, ma perché non me lo regalate uno Sirio? Ecco, non buria, Ma tutto, tu che c'hai i soldi, cazzo già me lo puoi regalare un baracchino Sirio, sì. Me ne sono scendendo vista da luce, me ne sono scendi. Ma che ho preso fra Chicco? Tracuzzo, pari due. E cosa volere fare? Allora mi ti furo nella luce, me ne frega un poco, e mi ha mai dato la televisione a voi. Sì, fai così, fai. Facciamo così. E cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare, Otto? E ho nulla. Ma se vuoi fare qualche cosa? Bubu, andare. Anda bene mera, anda bene mera. Francuzzo, ci sei? Batte un colpo. Non c'è più, non c'è più, non c'è più. Va butto, io mi assento che vado a farmi la doccia. Ce la riascoltiamo tutta quanta le migliori. Ciao ciao, buonasera. Sì, ok, ciao Manuel. Ma ci risentiamo domani, se tutto andrà bene. Ok, ciao. Franco, ci sei? Vabbè, dai, io vuol dire che chiudo. Ok, ciao a tutti se siete all'ascolto.